nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile di Maria Latella. Buona domenica, bentornati a Nessuna è Perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24, un programma che parla alle donne che lavorano, alle donne che hanno come praticamente l'intero genere umano un sacco di grattacapi, di problemi, vita privata, professionale, famiglia e la grande tentazione di fare tutto e tutto insieme. La grande tentazione, il diavolo, lo sapete, la grande fregatura si chiama multitasking e noi ogni puntata, ogni domenica ricominciamo da lì. Ma non solo perché è una nostra ossessione particolare, lo sapete che autorevoli scienziati dell'MIT e anche della McGill University hanno riconosciuto che il fare tante cose contemporaneamente, insomma il multitasking, fa addirittura male, abbassa il QI, come si dice. Lo dicono loro, mica lo dico io. Un'altra fissazione di Nessuna è Perfetta nella nostra imperfezione è cercare di trovare un modo per vivere bene in un mondo fatto di uomini e di donne, nel mondo del lavoro, in famiglia, nel rapporto di coppia. E questo metodo per capirci, perché appunto a volte è vero che gli uomini vengono da Marte e le donne vengono da Venere, parlano linguaggi diversi, ci spinge, come sapete, ad avere ogni settimana un agente provocatore, un uomo che ce le canta, che ci dice talvolta che è d'accordo con noi e talvolta invece mette a nudo le nostre debolezze. Vi ricorderete che qualche settimana fa, per esempio, abbiamo parlato di rivalità e di competizione tra uomini e donne in TV, perché ci sono molti conduttori televisivi che cominciano a vedere che i programmi di maggior successo sono spesso affidati a delle conduttrici e magari non sono molto contenti. Così ci ha rivelato il nostro agente provocatore di qualche settimana fa, appunto il giornalista Francesco Specchia. Ma se è vero che in TV per certi ruoli, come dice Specchia, le donne funzionano meglio, poi tutto da vedere se è così, non è così per le politiche, quando legittimamente si augurano di essere invitate in TV e invece vedono che a essere invitati sono sempre i loro colleghi maschi. Come stanno le cose? È davvero così? Ed è davvero ancora così anche per le interviste alle donne in politica, perché intervistati sui quotidiani sono quasi sempre i loro colleghi uomini? Insomma, voglio proprio sapere cosa pensa di tutto questo l'agente provocatore della nostra domenica, Francesco Bei, capo della redazione romana della Stampa. Benvenuto, buona domenica Francesco. Grazie, buona domenica a tutti. Hanno ragione le nostre politiche a lamentarsi perché voi giornalisti della politica più sofisticata, più addentro al palazzo, finite con l'intervistare sempre gli uomini? Ma io non credo, sinceramente, anzi io davanti alla mia porta ho la fila di politici maschi che mi dicono no, intervistate sempre le femmine. Ma dai, ma non ci credo. No, ma soprattutto in televisione. In televisione ci sono tantissimi politici maschi invidiosi che non riescono mai ad andare in TV, nei talk, e vanno a protestare con Sensi, con questi, insomma, con i responsabili della comunicazione dei partiti, che poi diciamo sono quelli che smistano quelle presenze in televisione, perché in televisione ci vanno solo giovani colleghe che fanno le prezzemoline, insomma. È stato persino denunciato, no, da Michele Anzaldi, deputato del Partito Democratico, in commissione vigilanza Rai, ha detto: beh, ma nei talk show della TV pubblica le politiche donne vengono imbittate in base al criterio al criterio estetico. Ma allora c'è davvero questa lamentazione da parte dei maschi? Assolutamente sì, assolutamente. Cioè, un tempo noi vedevamo in televisione i Cicchitto e i Gasparri, sì. Adesso se ci fate caso c'è la Anna Scani o la Boschi, o, insomma è così, non c'è dubbio che sia così. Però c'è anche da dire, adesso a parte le battute, c'è anche da dire che una volta, io diciamo ripensandoci, individuo tre fasi, se vogliamo schematizzare, no? Sì. C'è una prima fase che è durata per tutta la Prima Repubblica, di sostanziale marginalità delle donne in politica. Cioè, le donne in politica venivano affidati ruoli sociali, ministeri sociali. Cioè, non avevano il potere della politica, questo esatto, è certo. C'era la ministra delle pari opportunità, quella alla scuola. Al massimo la salute, no? con la Bindi, però sì. Raramente avevano ministeri hard di peso. Poi ci fu durante il periodo di Berlusconi, ci furono le ragazzine, diciamo le Carfagna, le Gelmini, le Menoni, le Giovanici, le Prestigiacomo. Tutta una e anche il Mesto Rito, te lo ricorderai perché i cronisti maschi sono stati anche autori, fautori di questo, dell'elezione di Miss Parlamento, quando veniva assegnato l'ambito premio ora alla Prestigiacomo, ora ad altre parlamentari. Il Miss Parlamento però in realtà, il Mister Parlamento in realtà poi... Non era oggetto, certo. Almeno non di pari attenzione. Quindi in questa seconda fase, diciamo, all'inizio ha prevalso il folklore, cioè vediamo le Berlusconi, il vecchio leader che si circonda di ragazzine, è prevalso questo tipo di racconto. E poi c'è stato il problema che queste ragazzine si sono dimostrate, diciamo, migliori dell'immagine che era stata cucita loro addosso, anzitutto dai giornalisti. E sono diventate politiche serissime, molto più serie in tanti casi dei loro colleghi maschi. Penso alla Gelmini, che al di là del merito comunque ha firmato una riforma della scuola di cui ancora si parla. La Meloni è diventata leader del suo partito. La Carfagna è una agguerrita presenza anche in Campania, certo. Come no, e la Prestigiacomo anche è stata considerata una buona ministra. Adesso siamo in una terza fase ancora, con Renzi, che ha nominato la metà del suo gabinetto al femminile e per la prima volta ha dato alle donne non dei ministeri come prima sociali o di immagine, ma ha dato l'hard work del governo, la Pinotti alla difesa, la Boschi che ha un po' il cuore, il motore del governo. Ma soprattutto è diciamo voce abbastanza diffusa e comune che la vera vicepresidente del Consiglio sia Maria Elena Boschi. La Mogherini adesso è andata in Europa, ma prima era ministro degli esteri, a Boldrini presidente della Camera. Insomma, il potere reale è passato a ministre donne. Quindi, diciamo, anche noi giornalisti, adesso è più difficile scherzarci sopra, insomma, fare il gossip. Molto, molto, come dire, pragmaticamente... I cronisti rappresentano un politico a seconda del peso e del potere che ha, giusto? È sempre certo. Stato così. Ora, è anche vero che con le donne, per quanto diciamo di potere esse siano, il gioco del raccontarle un po' anche per come si vestono, per il taglio sbagliato, per il colore sbagliato, è una tentazione fortissima che rimane sempre. Hai Hillary ragione. Clinton è una donna di potere, non c'è dubbio, e però un chilo in più o in meno, un trucco sbagliato, una ruga in più o in meno viene perfidamente notata, mentre nessuno, a parte adesso la capigliatura di Trump, sulla quale pure ci sono stati fiumi di articoli, però per il resto prima se Obama aveva una ruga in più o in meno, o Bush un chilo in più o in meno, non diventava oggetto. Non c'è dubbio. Lo, lo stereotipo di genere resiste, è una delle cose più difficili da superare. Ma tu pensi, qual è la tua opinione? È qualcosa che in qualche modo poi aumenta la popolarità della politica in questione o un pochino sottilmente ne riduce l'autorevolezza? Ma certo, è fatto sempre per indebolire, non c'è dubbio, è un mascheramento. Paradossalmente lo stesso giochino vale sia per le belle come la Boschi, ma anche per quelle considerate meno avvenenti. Quante cose sono state scritte su Rosy Bindi, per esempio, ma quante cose sono state scritte sulla Merkel, no? Certo, sul taglio di capelli, certo. O sui tagliere sempre uguali. Però lasciami dire, qui ci salutiamo, che né la Bindi né la Merkel si sono fatti scalfire da questi tentativi di scalpellarne la forza, l'autorevolezza. Alla Merkel gli hanno fatto proprio un plissé, niente. Certo, però partono sempre, devono sempre dimostrare di essere un po' più dei maschi, ecco, hanno sempre questa fatica in più da fare rispetto a colleghi maschi della stessa età. E quindi allora, ringraziando il nostro agente provocatore Francesco Bei, contiamo ovviamente anche sul tuo contributo per fare sì che ci sia una narrativa e una narrazione delle donne in politica un po' più aderente a come sono loro e un po' meno a come così piace forse un po' ai cronisti maschi giocarci su. A partire dal linguaggio, che avrete notato che io dico sempre la ministra e le ministre, ecco. Il linguaggio anche deve cambiare, pure questo è molto importante. Ne abbiamo proprio parlato di questo proprio con la Presidente della Camera, Laura Boldrini. Grazie e buona domenica, Francesco Bei. Grazie. Grazie. Nessuna è perfetta. Buona domenica, bentornati a Nessuna è Perfetta. Sapete che questo è il momento della nostra Sunday Girl. Chi sarà mai? Domenica, le nostre mamme, le nostre nonne a quest'ora del mattino già cominciavano a proporre gustose pietanze domenicali. La mia preferita di quando ero piccola era la lasagna della domenica e le pastarelle della domenica, comprate nella pasticceria di Sabaudia, della piazza di Sabaudia, erano un rito che mi rendeva felice. Perché vi parlo di cibo? Ma perché questa Sunday Girl di questa domenica è una signora della felicità culinaria, tornata in cucina, questa volta però nel ruolo di giudice del nuovo cooking show La Cuoca Bendata su Real Time. Benedetta Parodi è la nostra Sunday Girl. Buona domenica, Benedetta. Buona domenica, ciao a tutti. Ma buongiorno. La domenica è un giorno di pausa per te che cucinando lavori, cioè la domenica non vuoi vedere una pentola neanche a morire, solo ristoranti, oppure invece no, è un giorno in cui ti sperimenti anche con marito e figli? Guarda, io cucinerei volentierissimo anche la domenica, amo il pranzo domenicale, ma lo posso fare molto raramente perché Fabio lavora, ahimè, di domenica. Beh, certo, Fabio Caressa è... Per cui la domenica per noi è un giorno un po' particolare. Se riesco a organizzare una rimpatriata con la mia famiglia, quindi mia madre che arriva da Alessandria, mia sorella con la sua famiglia da Bergamo, mio fratello da Milano, allora sì, e mi piace da morire. Però se devo contare solo sulla mia famiglia i Caressa, la domenica si mangia una piadina al volo. Ah, ecco, senza stare lì troppo. Ma si può stare ai fornelli? Per il gusto, no? di creare, di rendere felici gli altri senza sentire l'eco no? Di quelle che sono state le critiche dagli anni 60, 70. Ci vogliono solo ai È fornelli, vero, eh? mamma mia, hai ragione. Questa è una domanda complicata, soprattutto se applicata a me, nel senso che ho fatto una carriera che mi ha portato prima a fare un po' il lavoro che è un po' il simbolo dell'emancipazione, no? Cioè fare la giornalista, anche se io non sono mai stata un'inviata, però insomma, bene o male facevo quello, Certo. e da lì mi sono Tornata ai volontariamente fornelli. rinchiusa ai fornelli. Allora, io penso che da una parte ci sia la passione personale, cioè dove c'è una cosa che ti piace da morire, allora lì non vale più nessun altro discorso. Nel momento in cui tu fai quello che ti piace, ti senti libera, ed è quello che è accaduto a me. Io, la mia più grande passione nella vita è cucinare, quindi io quando sono arrivata a fare del mio lavoro, della mia passione il lavoro, mi sono sentita una donna realizzata. Dall'altra parte dipende come lo vivi. Può essere anche un privilegio quello di noi donne, è un fardello ma anche un privilegio, perché noi sì, siamo lavoratrici, facciamo tante cose, però poi la famiglia è sulle nostre spalle, è inutile, non, è una cosa che secondo me non possiamo rifiutare, perché proprio per come siamo fatte noi, forse perché siamo E la fatte famiglia va meglio. nutrita, e la famiglia E va la famiglia va sfamata. nutrita, ma non solo nutrita, cioè proprio un insieme di cose, di organizzazione, no? Nel quale ci sta anche la cucina, dalla quale le donne non possono prescindere, secondo me. E tu sai che però questa è una trasmissione che, parlando di donne, lavoro ogni domenica, si fa un punto d'onore di smitizzare il mito del multitasking, perché col multitasking ci hanno Sì, schiavizzato e fregato un no, sacco di volte, è pretendendo la vero. perfezione quando invece agli altri non viene mai richiesta la perfezione. Noi Esatto, no, dobbiamo ma noi essere non dobbiamo multitasking essere perfetti. perfette, no, infatti la cosa bella è proprio, io sono la cosa più lontana che c'è dalla perfezione di questo mondo, cioè solo oggi ho fatto una riunione in cui c'era mio marito, anche una riunione abbastanza amichevole, abbiamo finito per snocciolare tutti i casini che sono riuscita a fare io nell'ultimo periodo della mia vita, non ultimo andare al cinema la scorsa settimana con una prenotazione, 5 bambini dietro, e andare nel cinema sbagliato. Ma uno si Così, fa una certo, risata, eh? Cioè, a un quindi certo dover punto non si può ricomprare essere. tutti i Sì. biglietti, e quindi entrare a vedere questo Deadpool, che era l'ultimo film della Marvel, per poi scoprire che era vietato ai 17 anni e fuggire con tutti i bambini mentre sul video succedevano delle cose che non si possono assolutamente ripetere. Quindi per dire, però il bello delle donne è anche quello. Sì, Siamo. e bisogna riderne un po'. Due ultime cose prima di salutarci. La prima è, qualche settimana fa è stato ospite da noi, lo chef Davide Oldani e appunto qui a Nessuno è Perfetta parlavamo del fatto che, il mestiere dello chef, almeno in TV, è molto maschile. Ma È perché? vero, Perché? non solo in TV, anzi, forse più nella vita, cioè nella realtà che in TV, perché è un lavoro Faticoso. faticosissimo, è un lavoro in cui innanzitutto devi reggere le redini di una cucina e poi hai dei ritmi mostruosi, una fatica sia fisica che psicologica non indifferente. Io ti parlo di voci, nel senso che io non ho mai vissuto in una cucina, in una Sì. brigata, però sento persone che me ne parlano e Però non ho se le dubbi. donne fanno i generali di corpo d'armata, Ma entrano da nel corpo poco, dei sai, Marine, e non infatti possono da poco sì. fare gli chef di una grande cucina? Da poco però sono diventate, cioè, si sono emancipate anche da quel punto di vista lì, proprio perché forse la donna era relegata in questo ruolo di cuoca del focolare domestico e quindi più che altro di custode di una tradizione che non era poi tanto innovativa, per cui era l'uomo, no, che riusciva a liberarsi dalla classica lasagna, inventare delle cose, studiare, la donna rimaneva un po' a custodire la tradizione familiare. Oggi per fortuna non è così, e penso penso che di aver letto che in Italia c'è forse la maggior parte delle donne stellate, delle chef stellate nel mondo sono italiane. Sono italiane qui e c'è un senso in tutto questo, infatti anche Davide Oldani le citava. E sono fortissime le donne chef, io ne ho conosciute alcune, sono meravigliose. Meglio dei generali. Degli uomini. Ecco, chiudendo questa nostra chiacchierata domenicale, io ho una curiosità. Qual è per Benedetta Parodi il brunch perfetto? Lasciamoci così, con profumo. Allora, sì, io adoro fare i pancake la domenica mattina. Mi piace molto, uso una ricetta in cui metto lo yogurt, che è un po' come il latticello americano, e quindi mi piace sentire il profumo, il burro che sfrigola. Poi ognuno le condisce, diciamo, come vuole. Tu cosa ami? La marmellata o lo sciroppo? No, sciroppo d'acero. Ma proprio una marea, una zuppa faccio praticamente con un caffè americano enorme. Insomma, è così, inizio veramente deliziosamente. È la perfetta domenica. Allora noi ci lasciamo così, sognando pancakes che purtroppo non avremo questa mattina qua a Radio 24. Però ragazze, non si pranza poi, mi raccomando. No, se no una botta calorica così non la sostieni. Buona domenica, Benedetta. Buona domenica e ti seguiamo come sempre nel tuo nuovo ruolo di giorni, da lunedì al venerdì, però cucino, mi raccomando, la cuoca bendata io cucino. Non sei solo in giuria. No, guai, nessuno mi toglie dai fornelli. Buona domenica ancora, grazie. Grazie. Maria, grazie. Nessuna è perfetta. Bentornati a Nessuna è perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24, il momento delle lettere che voi, ve lo ripeto, potete inviarci scrivendo all'indirizzo mail nessunaeperfetta@radio24.it. La lettera di oggi. Da un po' di tempo a questa parte il mio capo si comporta in maniera ambigua. Quando siamo da soli non perde l'occasione per rivolgermi apprezzamenti e non professionali. Mi fa domande inopportune, mi chiede della mia vita privata. Ho cercato di fare resistenza a questo comportamento. Gli ho fatto presente con le buone che questo atteggiamento mi crea imbarazzo. Lui si è risentito alle mie proteste, ha minimizzato e mi ha dato in qualche modo la colpa di essere una maliziosa. E vi assicuro, non sono maliziosa, non è affatto così. Ho bisogno di questo lavoro, non posso permettermi di lasciarlo. Come devo comportarmi? Silvia. Vi presento subito le due esperte che mi aiuteranno oggi a parlare di questi temi. Benvenute a Nessuna è perfetta e buona domenica, a Laura Laera, presidente del Tribunale dei Minori di Firenze, e all'avvocato penalista Giulia Bongiorno, che nel 2007 ha dato vita a Doppia Difesa con Michelle Hunziker. E io comincerei subito da Giulia Bongiorno. È prima di tutto una questione di riconoscimento delle proprie competenze e qualità professionali, perché se sul posto di lavoro una è brava e comunque c'è sempre quest'alea che, siccome può essere molestata, magari è meno brava di quel che è, ci sarà sempre meno rispetto per lei, no? Io credo che sia fondamentale innanzitutto l'atteggiamento anche delle donne rispetto a questo tipo di condotte, proprio perché se vogliamo far valere le nostre qualità, la nostra professionalità, la nostra competenza, dobbiamo essere le prime ad avere un atteggiamento uniforme, cioè a opporci a qualsiasi tipo di molestia. Questo è il primo punto, cioè non essere accondiscendenti e dire vabbè, siccome lo fanno tutti, accettiamo pure noi che questo avvenga, perché altrimenti poi il ragionamento che facevamo prima, cioè un po' chissà se questa è brava o perché piace al capo, può essere la naturale conseguenza. Beh, Presidente Laera, è possibile fissare un limite, una specie di grado di separazione tra quello che può essere un innocuo complimento e la molestia? Perché spesso poi quando si va in udienza, l'abbiamo visto anche nel caso di cui si è largamente parlato, la reazione della difesa di quello che di solito è un maschio imputato è: ma quello era un complimento innocuo, quella è una pazza, si è fatta una cosa gigantesca di un innocuo, gradevole atteggiamento. Come si fissa un limite? Ma dunque, io direi che il limite è sempre quello del rispetto della dignità di una persona, cioè molestia è ciò che non è gradito e anzi ci reca disturbo. Quindi è chiaro che poi culture diverse hanno sensibilità diverse, però alla base penso che ci sia sempre la considerazione che si ha nei confronti dell'altro da noi, cioè se come un oggetto o come un soggetto, una persona. Quindi io credo che si possa fare anche una gamma infinita di complimenti a una donna, anche graditi, per carità, se si ha una sensibilità e un rispetto autentico per l'altro. Quindi Il punto è proprio questo, che magari si scambia l'essere galanti, come si diceva un tempo, con l'essere rispettosi delle donne. È una domanda che pongo a tutte e due. Ma insomma, io ripeto, credo che il confine sia sempre questo, essere rispettosi della sensibilità di chi si ha di fronte, perché poi il contesto è sempre molto importante, no? Ora qui non è che si pretende che ci si comporti come nel Dulcis in Novo, ecco, con Dante, con Beatrice, però la rozzezza di certi comportamenti direi che è intollerabile, e a meno che non si sia diciamo complici e quindi si tolleri questa modalità di essere. Ecco, io vorrei tornare sulla vicenda che è quella che riguarda l'ormai nota sentenza sul palpeggiamento, Giulia Bongiorno, la sentenza che ha di fatto assolto un datore di lavoro perché l'ha considerato immaturo a 65 anni. Può essere che in punta di diritto la sentenza sia motivata, ma qual è il messaggio che se ne ricava? Allora, io ho letto delle parti di questa motivazione e anche la difesa che poi ha fatto il presidente del tribunale, ma a dire la verità non mi convince nemmeno quel tipo di difesa, perché vede, il messaggio che si ricava è che comunque esiste un'area in cui basta buttare tutto sullo scherzo per far, diciamo, quasi derubricare quello che è un fatto penalmente rilevante a un gioco di ragazzino, un gioco del ragazzo immaturo. Quello che non mi piace come messaggio è proprio questo. Io credo che il vero problema sia la ridicolizzazione di alcune cose, perché io ricordo che quando ero Presidente Commissione Giustizia e cercavo di spingere la legge sullo stalking, sì, mi arrivavano delle mail in cui mi si ridicolizzava, mi si diceva: sì, ma scusa, ma tu alla fin fine non fai altro che cercare di sanzionare il corteggiamento. Ah, sì, allora, certo, il voler sminuire quello che è reato. Allora, se esistono ovviamente una serie di sentenze che fanno una distinzione tra atto sessuale e atto non sensuale, ma quello che mi ha colpito della motivazione della sentenza è che si arriva a dire che molto dipende dalla rilevanza penale, per la rilevanza penale, a secondo il tipo di atteggiamento psicologico dell'autore del reato, cioè se il soggetto vuole scherzare e non ha tratto nessun beneficio sessuale, tutto sommato è un atto da ragazzi. Ecco, questo non va per nulla. Ma tra l'altro, Presidente Laera, è molto complicato far introdurre il concetto di rispetto nei confronti delle donne se questo rispetto uno non ce l'ha. Per citare Manzoni, se il coraggio uno non ce l'ha non se lo può dare, e se il senso del rispetto uno non ce l'ha non se lo può dare. È qualcosa che si apprende in famiglia. Lei spesso ha scritto della crisi di modelli educativi, visto che da presidente del Tribunale di Firenze ne ha avuto spesso contezza. E allora come si apprende la cultura del rispetto? Ma io credo che appunto la cultura del rispetto inizia in famiglia e con il buon esempio, per cui è evidente che i bambini crescendo in una famiglia dove il papà rispetta la mamma o non solo diciamo all'interno della sua famiglia, ma tiene un comportamento rispettoso in generale verso gli altri, perché qui non è solo un problema diciamo di rispetto tra uomo e donna, ma di rispetto nei confronti delle persone, perché è un problema che riguarda anche, non so, il rispetto verso chi è diverso da noi, verso gli immigrati, verso persone socialmente svantaggiate. Cioè il rispetto è una cosa che matura nei confronti di tutti, di tutte le persone e quindi anche nei confronti della donna, e certamente il primo insegnamento lo abbiamo in famiglia. Certo non basta, perché poi abbiamo oramai i modelli culturali sono veicolati anche da altro che non certo. È la famiglia, quindi, social media, la sanzione sociale conta, se c'è, conta di più che magari il solo insegnamento familiare. Beh, diciamo che conta molto, molto, perché i social media sono molto diffusi, anche pervasivi, diciamo. Poi ci sono i contesti nella scuola, e abbiamo insomma molti luoghi in cui è importante che gli adulti siano dei punti di riferimento validi per i giovani e che sappiano educarli al rispetto. Quando invece, Giulia, buongiorno, si tratta di avere a che fare con degli adulti, come in questo caso il capo aveva appunto 65 anni, lei, avvocato, diceva prima non bisogna accettare con la convinzione che così fanno tutte. Serve per riuscire a trovare la forza in se stesse, serve anche la consapevolezza che c'è comunque una rete di sostegno. Ma le altre donne sostengono una collega che va e denuncia pubblicamente un atteggiamento di molestie? Credo che abbia colto nel segno con questa domanda, nel senso che quando ci sono situazioni di questo genere, di solito la denunziante quasi sempre risulta perdente, perché non c'è alleanza da parte delle altre colleghe e si crea una situazione di isolamento, perché molte poi tendono a dire in realtà te la sei cercata. E questo dipende dal fatto che purtroppo tra le donne non è un luogo comune, ma è un luogo purtroppo effettivo, non c'è grande alleanza e grande solidarietà. Però vorrei chiarire anche una cosa: noi stiamo parlando di tutte queste molestie e il Presidente giustamente sottolineava l'importanza dell'educazione. Io vorrei dire una cosa fondamentale: tutto ciò di cui stiamo parlando ha a che fare, anche se sembra forte quello che dico, però con la discriminazione che tuttora esiste nel 2016 tra uomo e donna, perché tuttora esiste una discriminazione, cioè che comunque l'uomo si sente superiore. Da questa superiorità nasce anche il fatto che ci si sente legittimati ad andare al corteggiamento invasivo, se non alle molestie. Cioè non dobbiamo scollegare queste molestie dal problema, secondo me, culturale. Che esiste. Certo. Allora siamo proprio in chiusura. La Presidente Laera condivide quanto ha appena sostenuto l'avvocato Buongiorno? Sì. Certo, sono d'accordo, è una cultura, la cultura in cui noi viviamo è una cultura che ha matrici patriarcali molto antiche e che quindi richiede anche tempo perché questa sia superata. Io credo che poi in realtà questi uomini che diciamo si pongono nei confronti della donna in questi modi così rozzi siano poi diano una rappresentazione non di forza ma di debolezza, e perché diciamo è come se dovessero ribadire in questo modo così un po' rozzo la loro virilità. Io vi ringrazio moltissimo, ringrazio la Presidente del Tribunale dei Minori di Firenze, Laura Laera, l'avvocato penalista Giulia Buongiorno, che come sapete è anche la cofondatrice di Doppia Difesa con Michelle Hunziker. Buona domenica a tutte e due, grazie per essere state con noi a Nessuno è Perfetta. Grazie a lei, grazie. Arrivederci, grazie. nessuna è perfetta. Rieccoci a Nessuna è perfetta, è l'ultima parte della nostra domenica dopo i consigli dell'avvocata Giulia Buongiorno e della presidente del Tribunale dei Minori di Firenze, Laura Laera. È il momento di ascoltare i consigli della nostra coach. Buona domenica, bentornata Maria Serena Ciambellotti. Buona domenica Maria. Buona domenica a tutti. Allora, nella lettera di Silvia non è che si parli esplicitamente di molestie, ma di una situazione di imbarazzo, che è qualcosa di sottile, perché appunto c'è sempre il rischio che il capo in questa situazione o altri le dicano: ma tu ti sei sognata tutta, ma tu sei una mitomane. E Silvia non se la sente nemmeno di mettere in crisi il suo rapporto col lavoro, perché è un lavoro che le serve. Che consiglio le daresti? Ma mi ha molto colpito il verbo che ha usato Silvia nella sua lettera, minimizzare, no? Quindi il capo che minimizza. Ricordiamoci che la molestia è qualcosa che offende la dignità di chi la subisce, che è assolutamente non desiderata. Quindi a un certo punto, se la battuta piccante o il complimento eccessivo risulta non desiderato, vale proprio la pena di sottolinearlo, come giustamente ci ha detto di avere già fatto Silvia, pur con le buone, e qui poi bisognerebbe capire un po' come lei ha trasferito questo messaggio, perché quello che conta è proprio di portare avanti la propria stanza, cioè questo che per te è la normalità, per me è fastidioso. Non tutti la pensano come te, caro galante capo. Lo so che è difficile far capire che non tutti apprezzano, perché il punto di vista è esattamente l'opposto. Ma come, ti sto facendo un complimento e non sei contenta? Ecco. Sì, e sì. Io aggiungo che il punto di vista spesso è opposto anche da parte, e lo dico da donna, di tante donne che vedono in questo gioco, in questa, come dire, fidarsi, no? Sul maschile e sul femminile, una piacevole intrattenimento. Quindi senza rendersi conto del fatto che poi c'è invece un sottile gioco di svalorizzazione del tuo ruolo, di quello che rappresenti professionalmente. E, l'ultima cosa che vorrei chiederti, Maria Serena, spesso si ha del pudore a raccontare, ma sai che ho subito delle avance. Da un lato perché appunto c'è il timore di sentirsi dire: ah, sei la solita mitomane, adesso tutti stanno a pensare a te. Uh-huh. E dall'altro perché c'è un timore, siamo comunque non abituate ad affrontare, no? a viso aperto questo genere di cose. Che fare? Ma intanto il timore, la paura, non è che un'emozione, no? E quindi come tale la paura, la vergogna, il senso di inadeguatezza è importante che venga riconosciuta. Già solo, come dire, nominarla e quindi chiedersi: quello che sto provando, che cos'è paura, vergogna? È una mia emozione. Le emozioni sono la voce di bisogni che non vengono, ai quali non stiamo dando risposta, e proviamo a immaginare come se avessimo una manopola del volume, no? Quindi se ho paura, se ho tantissima paura, quindi volume massimo, mi blocco. D'altra parte la paura, quell'emozione lì che mi fa sentire a disagio nei confronti dell'avance, se minimizzata si trasforma in una grande qualità, no? Che è quella ad esempio della prudenza. E quindi provare a ragionare in questi termini, cioè quindi prendere contatto con quell'emozione che mi suscita la situazione, quindi quel disagio, che cos'è quel disagio, come lo chiamo, una frustrazione, una paura, una vergogna, un senso di inadeguatezza. Prima di tutto parlarne con se stessi e poi parlarne con qualcuno che si riconosce, abbia un po' di esperienza, qualcuno che sia in grado di capire lo stato d'animo che gli stiamo raccontando. Sì, e anche fare quindi un po' rete, no? Tra persone che possono avere avuto contatto con quest'uomo che ha un po', come dire, ceduto nel manifestare il suo apprezzamento. Per fare un esempio pratico e poi lasciarci, chi? Sai, qui stiamo parlando di un capo, quindi con chi ne può parlare Silvia? Ma ha volte anche ci sono dipendenti che non sono più in quel settore, che non sono più in quell'ufficio, che non sono più in quell'azienda, con i quali non è così, con le quali non è così difficile entrare in contatto, e parlando a loro si scopre che, ah beh, caspita, anche a te è successo questo, anzi ti dirò di più, ho chiesto il trasferimento da questo ufficio all'altro proprio perché mi metteva quindi disagio. Cercare qualcuno che non è più direttamente connesso con la realtà in cui sta lavorando Silvia, qualcuno fuori, magari qualcuno che è andato in pensione, e chiedere un consiglio all'esterno. Oltre che naturalmente rivolgersi, quando la situazione diventa, come dire, insostenibile, a chi nell'azienda ha, come dire, una rappresentanza dell'ufficio, quindi sto immaginando l'ufficio risorse umane o associazioni che proprio quando la situazione diventa insostenibile abbiano appunto come obiettivo quello di tutelare la condizione della donna, che non venga discriminata. Grazie a Maria Serena Ciambellotti, buona domenica a te e buona domenica a tutte voi che ci avete seguito. Vi ricordo che potete scriverci anche su Twitter usando l'hashtag Nessuna è Perfetta o raggiungerci sulla nostra pagina Facebook. Buona domenica e ricordatevelo, il multitasking è una fregatura.